La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, e questo lunedì 23 di maggio, sono le 16.30 primi e 14 secondi, in diretta alle Studi di Milano vi saluto e vi ringrazio Oscar Giannino per l'ascolto, in diretta o in podcast, ed è una trasmissione un po' sul tamburo oggi. Ho deciso, per quanto abitualmente ci occupiamo più d'Italia che di estero, lo sapete, in versione di Oscar, un tempo non era così, facevo spesso trasmissioni dedicate all'estero, però oggi c'è una novità che è proprio in corso di ebollizione in queste ore, non c'è ancora il dato ufficiale, però c'è una sorpresa nella nostra confinante Austria, forse l'avrete sentita preannunciata dai giornali radio, siccome è una sorpresa che secondo me ci riguarda da vicino, non solo per quello che avete letto ed è avvenuto nelle ultime settimane al confine con il Brennero ed era evidentemente collegato, no, alle elezioni primo e secondo turno delle presidenziali in Austria e al vantaggio, alcuni si erano sorpresi, io meno, ma insomma al vantaggio che dopo il primo turno aveva il candidato dell'FPÖ, cioè il nazionalista Hofer, e quindi di qui l'atteggiamento muscolare dell'Austria, la richiesta di chiusura della frontiera, poi sventata, poi di nuovo la notizia due giorni prima del secondo turno in questo fine settimana che ci sono reparti di polizia pronti a chiudere austriaci il varco eccetera eccetera. Ebbene, la novità che attende conferma ma è autorevolmente accreditata a questo punto, a quest'ora, a questo pomeriggio alle 16.31 dalla stragrande maggioranza delle testate più autorevoli di informazioni austriache, e che dopo aver chiuso ieri il ballottaggio di chi è andato direttamente al voto in vantaggio, Hofer, con gli 800.000 voti dati per posta, record nella storia delle elezioni presidenziali austriache, il risultato sarebbe ribaltato e quindi le presidenziali austriache vedrebbero vincitore il candidato verde indipendente Alexander Van der Bellen, che avrebbe a questo punto sconfitto l'ultranazionalista Hofer. Pare per uno scarto che viene valutato allo stato attuale 12.000 voti, mancherebbero solo pochi distretti, tra virgolette, per così dire, postali, e il voto però sarebbe coerente col fatto che già al primo turno nel voto per posta a Hofer era andato poco più del 25% tra dei voti, quindi su coloro che hanno deciso di votare per posta il referto di coloro che erano andati a votare sarebbe stato a quel punto invertito. Allora si tratta di capire, e questo ci può aiutare un esperto vero di Austria per questo, si tratta di capire almeno tre aspetti. Primo, i giornali italiani hanno spiegato bene fino a questo momento davvero la sorpresa di questo voto, cioè quando tutti sono caduti un po' dal pero di fronte ai voti ottenuti dal candidato dell'FPÖ, non era per caso che ci siamo persi qualche cosa, eravamo un po' troppo disattenti rispetto alla volontà politica austriaca, e quindi è davvero a sorpresa questo risultato oppure no, se ha vinto come pare invece il candidato dei Verdi. Secondo, che cosa ci dice di quello che può avvenire a questo punto nei rapporti rispetto alla delicata frontiera Brennero-Schengen e a tutto quello che sta avvenendo in Europa? Questo risultato che, se confermato tra poche ore, sarebbe una specie di picco a doccia fredda sulle attese che dovunque in Europa e di elezioni in elezioni vincono a questo punto gli anti-euro, gli anti-Europa, i più nazionalisti eccetera eccetera. Attenzione, comunque saremmo in presenza di un risultato del 49,9%, quindi non è che è andato male il candidato del PO, però non ha vinto, perché a quel punto nel braccio di ferro da solo contro tutti c'è un candidato di convergenza che lo batte, sia pur di poco. C'è una lezione solo per l'Austria o c'è una lezione anche per i prossimi turni, innanzitutto per Brexit in Gran Bretagna il 23 giugno, poi per le elezioni francesi, per le elezioni quando saranno dopo il referendum anche in Italia, e comunque anche il referendum italiano è uno contro tutti, almeno per come è partito con Renzi fortissimamente col piede dell'acceleratore. E quindi questo il secondo aspetto. Il primo è quello dei rapporti diretti e della caduta e delle conseguenze in Europa. Il secondo, sto invertendo, se abbiamo capito davvero quello che è successo in Austria o lo abbiamo scoperto un po' troppo tardi, e poi il terzo, quello che significa anche per le prossime elezioni. Allora, per aiutarci un po' a capire tutto questo, chi è davvero il candidato verde che avrebbe vinto? È un antisviluppista oppure è una persona autonoma che ha vinto per un prestigio proprio? In cosa è diverso o identificato con il classico, per così dire, profilo di un candidato di sinistra? Quali sono le sue caratteristiche personali rispetto a quelle invece di Hofer e dell'FPO? E per capire e per tentare di una prima lettura di questo risultato, ripeto, se sarà confermato, è con noi, chi ne sa 100.000 volte più di me, cioè una lista di politica internazionale che si occupa da tempo del sistema politico austriaco, tra gli altri, Paolo Quercia. Grazie di aver accettato l'invito, Paolo. Buongiorno Giannino, grazie a voi. Naturalmente, e tu sei in Austria tra l'altro adesso, vero? Sono in Austria, esatto. Allora, ci confermi innanzitutto che quello che dice l'informazione austriaca è più o meno quello che ho sintetizzato, cioè avrebbe vinto a sorpresa il candidato contrapposto a Hofer? Sembrerebbe di sì. Io vedo qui anche su Facebook, lo stesso Hofer ha fatto una dichiarazione circa 15 minuti fa, mi sembra, dove riconosce la sua sconfitta, quindi non ho visto i dati ufficiali né questi dati di 12.000, insomma, ma perlomeno c'è la notizia è questa in Austria adesso. Allora, vogliamo un secondo cominciare dallo spiegare ai nostri ascoltatori. Questo Alexander van der Bellen, cognome nobile tra l'altro, è un classico rappresentante storico dell'ambientalismo e della sinistra austriaca, o ha dei tratti che, per così dire, spiegano meglio, solo che a noi sono sconosciuti, non seguendo la realtà politica austriaca, questo suo successo è una prova di forza contro Hofer, che ha rappresentato a un certo punto la grande paura per l'Europa? Come diceva lei, Giannino, è un po' una sorpresa quello che è accaduto, perché se ci ricordiamo le presidenziali precedenti, l'affluenza era molto più bassa e il candidato, il presidente, di fatto era un accordo che facevano i due partiti della grande coalizione, socialisti e democristiani, per cui c'era anche poco competizione, era un voto formale dove veniva suffragata questa alleanza politica. E queste elezioni sono una vera rivoluzione per il sistema austriaco, perché per la prima volta invece i candidati dei due partiti che effettivamente facevano il bello e il cattivo tempo nella politica austriaca, che hanno sempre espresso il presidente, non hanno raggiunto il ballottaggio, e al ballottaggio sono arrivati due candidati, uno più noto appunto, van der Bellen, e l'altro più sconosciuto, ma che comunque nel panorama austriaco rappresentano, diciamo, possiamo permetterci di dire, due partiti entrambi con gradi diversi, ma di estremismo o di non sono due partiti centristi, possono essere forse chiamati di estrema destra o di sinistra molto, molto spinta, quello dei Verdi. E questo è una grossa novità, cioè di fatto il sistema della grande coalizione rosso-nera, così viene chiamato in Austria, e con questa elezione presidenziale è crollato. Mentre forse secondo me è stato un po', adesso io non voglio dire, però è da anni che il Partito della Libertà, l'FPO, prende percentuali, non solo a doppia cifra, ma intorno al 30% nelle elezioni di volta in volta locali, eccetera, eccetera, austriache. Improvvisamente è come se i giornali italiani avessero scoperto che c'era questa travolgente presenza nella scena politica austriaca. La novità vera non è questa, mi pare di capire, o no? Sì, ormai sono parecchi anni che prende voti importanti, e gli ultimi sondaggi, soprattutto quelle per le politiche del 2018, lo danno fortemente sopra il 30%. Quindi da questo punto di vista è una scoperta un po' di chi conosce poco i nostri vicini, diciamo. Ma per esempio un altro particolare, cioè quello che in realtà i giornali italiani non hanno colto dopo il primo turno, il fatto che abbia preso così tanti voti un candidato indipendente di centrodestra questa volta, quindi non van der Bellen ma Gris, che cosa vuol dire? Vuol dire che un magistrato, è un ex magistrato questo Gris di cui stiamo parlando. Sì, esatto. Beh, vuol dire che esiste al di fuori del sistema consociativo, quello dei democristiani socialisti, della grande coalizione, ormai esiste uno spazio ampissimo che non è solo quello della FPO, che nel sistema austriaco, diciamo, svolgeva il ruolo un po' come era il PC nella nostra prima repubblica, no? Un 30% circa, un austriaco su tre di voti congelati, però diciamo non spendibili per fare alleanze di governo. Qualche ascoltatore farà un salto sulla sedia all'idea del paragone tra l'FPO e il vecchio Partito Comunista Italiano. Beh, perché quella è la proporzione numerica, diciamo, potremmo dire l'MSI se vogliamo, però le proporzioni non sono quelle. L'MSI era un partito, no, diciamo, certo, molto più piccolo, mentre l'FPO è arrivato ad avere e tuttora ha il consenso di un austriaco su tre, quindi va considerato in questa dimensione. Tenere un terzo dell'elettorato fuori dalla stanza dei bottoni si può funzionare fino a un certo punto, ma poi qualcosa accade. Secondo me accade che il sistema si è rotto e si è creato anche una seconda componente che intacca la grande coalizione, che è quest'area invece più di centrodestra, che si esprime con movimenti più di carattere forse populista, come è stato questo dello Stronach, per esempio, questo miliardario canadese che ha fondato un suo partito, che è arrivato a prendere anche lui molti, molti voti. Quindi ormai al di fuori dell'alleanza democristiani e socialisti c'è quasi un 50% del paese che non si riconosce più. Poi, la fine, voglio dire, è come se fosse l'accelerazione di quelle espressioni tradizionali delle due grandi famiglie, quella socialista e quella popolare moderata, che in realtà poi hanno rappresentato la storia di lunga durata nel secondo dopoguerra anche della Germania, per essere chiari. In Germania, esatto, cioè, c'è un'analogia da questo punto di vista oppure no, secondo te? È un po' forzata? No, ci sono forti collegamenti sia nella limitazione dei sistemi, però diciamo forse l'Austria ha molte più contraddizioni, perché nella Germania, diciamo, in un paese della stazza della Germania ha un senso, no? In un paese più piccolo e sostanzialmente con un diverso sistema produttivo, di competitività e anche di identità, no? Perché è un paese alpino, forse più simile alla Svizzera per tanti versi. Ovviamente questo sistema ha delle contraddizioni per molte cose. Pensiamo alle questioni migratorie, l'Austria non sa se deve stare con la Germania o con l'Ungheria, per esempio, perché da un lato vorrebbe avere e in parte condivide le politiche migratorie della Merkel, o perlomeno quelle che... Beh, con Hofer sarebbe stato con l'Ungheria, mi pare di capire, la promessa. Con Hofer sarebbe stato con l'Ungheria, esattamente, mentre con van der Bellen probabilmente anche, perché se abbiamo visto queste elezioni, lui ha cambiato radicalmente la posizione dei Verdi sull'immigrazione, che tradizionalmente è una posizione di diritto a immigrare in Europa, la posizione classica dei Verdi sull'immigrazione è che l'Europa è un continente di immigrazione. In queste elezioni presidenziali l'ha molto moderato. Molto perché molto. Van der Bellen, cari ascoltatori, questo Van der Bellen che vince, appunto, è un economista, ha 71-72 anni, aveva ottenuto il 20%, il 21,3% dei voti contro il 35,1% di Hofer. È un personaggio, per come io l'ho conosciuto, l'ho seguito un po' negli anni, non abbastanza, ma insomma gli elementi che arrivano a me, e Paolo correggimi ogni cazzata che dovessi dire, è che non corrisponde molto al tradizionale, come devo dire, fenotipo del leader ambientalista fortemente di sinistra, eccetera eccetera. È un tipo che ci ha sempre messo una sua forte carica personale. Lui è un ex leader dei Verdi e è stato un europeista convinto, che in questa campagna elettorale, in realtà negli ultimi due anni, ha molto ammorbidito le sue scelte che in passato erano fortemente europeiste, perché lui nasce come da giovane, come militante socialista, e ha detto in questa campagna elettorale, e questo è piaciuto molto secondo me, che non firmerà il trattato transatlantico con l'America, quello sul libero commercio, che però nel caso dell'Austria è già stato approvato dal Parlamento, e lui ha detto: io se divento capo dello Stato non lo promulgo, quindi non se ne parla, bisogna discuterne. Ed è un tipo un po' singolare rispetto agli eccessi ambientalisti, cioè, per dire, lui ha sempre dichiarato di amare l'automobile, di amare l'industria dell'auto, fuma, non è, voglio dire, un eccesso salutista. È anche una sua storia particolare, perché lui viene che è antisovietica, per capirci, perché lui è figlio di un estone, di una madre estone, di un padre russo che era fuggito dalla rivoluzione nel 17 per andare in Tirolo. Quindi insomma, diciamo, non è il verde fuori rosso dentro. Mi sbaglio, Paolo? No, il profilo è corretto e molto interessante. Diciamo, invece dall'altra parte abbiamo il partito dell'FPO, che poi è guidato da Strache, non da Hofer, che si è invece fortemente schierato pro Putin e pro Russia, diciamo, esatto. Quindi Da questo punto di vista c'è una grande trasformazione di tutti i paradigmi della, un po' della vita politica austriaca. Io penso che però il valore, è chiaro che van der Bellen ha una, il physique du rôle più appropriato per il ruolo di presidente. Il problema è che questo è un messaggio fortissimo per la politica austriaca e per le elezioni che ci saranno a breve. Di fatto per l'FPO vincere il ruolo del il posto del presidente o meno non era così importante. Avere il candidato al 50% è già la più grande vittoria. Non c'è dubbio. Però ricordiamolo che a differenza di quello che hanno raccontato molti giornali italiani, non è vero che il presidente della Repubblica Austriaca praticamente taglia solo nastri. Perché lui può mandare i governi a casa, questo è il punto. Esatto, questa è una particolarità molto forte. Lui per qualsiasi motivo può sciogliere il Parlamento, sentito il Presidente della Camera, però ovviamente anche qualunque cosa gli dica lui può decidere, lo può fare una sola volta. Però può farlo, cioè a differenza di quanto scrive in Italia, che quando c'è una maggioranza in Parlamento il Presidente della Repubblica va con i governi tecnici. No, lui può decidere di sciogliere, punto, in Austria. Così di sciogliere perché, avendo un mandato popolare di elezione diretta, questo potere gli dà una forte capacità. E quindi è chiaro che un Presidente dell'FPO avrebbe convocato elezioni per far stravincere il suo partito. Sicuramente lui avrebbe, io penso, un Presidente dell'FPO avrebbe fatto due cose. Uno, avrebbe cercato di scardinare l'alleanza della grande coalizione, che chiaramente, essendo da 50 anni di fatto gli stessi partiti che governano gli stessi ministeri e occupano gli stessi spazi di potere, è chiaro che la lettera della Costituzione può essere più volte... No, ma questa roba è andata comunque in frantumi, secondo me, anche con la vittoria di van der Bellen. Van der Bellen, quando era leader dei Verdi, è arrivato a malapena al 10%, che era per loro... Cioè, questa volta c'è un sistema politico che naufraga, che ha una durata sessantennale in Austria. Per questo, adesso dopo un minuto di interruzione stradale, ti chiedo di rispondere seccamente a tre questioni. C'è un risultato che riguarda tutti i capi partito o candidati alla presidenziale in Francia, eccetera, eccetera. State attenti che se la mettete uno contro tutti perdete, non lo so, i sistemi politici restano diversi, però certo questo è un risultato a sorpresa. C'è qualcosa che riguarda anche l'Italia da questo punto di vista, secondo te, Paolo Querci? La risposta è tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo tentando un primo commento insieme a Paolo Quercia, che è analista di politica internazionale e esperto in particolare anche del sistema politico austriaco, di questa novità in attesa per molti versi. Forse si poteva sperare che avvenisse alcuni, ma era in attesa visto il grande successo, molto lungo, grande il vantaggio, voglio dire, al primo turno delle elezioni per le presidenziali austriache del candidato dell'FPO, il nazionalista Hofer, e invece pur avendo vinto di uno strettissimo margine, ma insomma erano più di 100.000 voti nel voto alle urne ieri del secondo turno, i risultati del voto attraverso la posta hanno ribaltato questo risultato. Siamo in attesa della conferma ufficiale, però ormai è accreditato ufficialmente questo, e quindi ha vinto, ha recuperato lo svantaggio di ieri nelle urne e ha vinto invece il candidato indipendente dei Verdi, van der Bellen. Allora, questa vittoria sorpresa, secondo te, Paolo Quercia, ha un significato anche in qualche modo per i capi partito, diciamo, populisti, anti-europei, nazionalisti, anti-immigrazione di altri grandi paesi europei, a cominciare dalla Francia, secondo te? Sicuramente sì, chiaramente tutti pensano, a iniziare dalla Germania, no? I paragoni che si possono fare con i rispettivi paesi. Anche se io non credo che esista questa internazionale populista o nazionalista, per la stessa natura dei partiti nazionalisti che non tendono a replicarsi identici in altri paesi, perché appunto hanno una identità che termina con i propri confini. Non penso che la AfD in Germania sia simile o paragonabile all'FPO, mi sembra sono due anche strutture diverse, diciamo, politiche. Così come la Francia, io li lascerei molto non assimilabili, come si può fare magari nell'internazionale socialista o in altre parti politiche. E dato per scontato che è ovvio che a Berlino considerino la Merkel e insieme al governo di coalizione con i socialdemocratici, è ovvio che preferisce il risultato di oggi van der Bellen rispetto a Hofer, ma cosa cambia con van der Bellen nel rapporto con Berlino? Allora, secondo me la domanda è dov'è che si... In realtà non dovremmo tanto paragonare questi partiti, chiamiamoli populisti genericamente, sì, tra di loro, quanto dovremmo immaginare che invece i partiti di governo daranno risposte simili. Questa penso è la considerazione che accade. Di fatto, partiti marcatamente, adesso a torto ragione, bollati di populismo, eccetera, non sono destinati a vincere le elezioni nei rispettivi paesi e probabilmente sono molto diversi tra di loro. Però hanno in questa fase storica la funzione di portare i partiti di governo, che sono i normali partiti democristiani, socialisti, liberali, verso uno spostamento, possiamo dire a destra, delle proprie politiche. Non so, io dico più che a destra, perché destra e sinistra ormai vogliono tutti Stato, non è solo in Italia, è molto europea la cosa, cioè in Francia Macron che vuol fare il liberista va nei guai. Però detto questo, molto più sulla nazione, secondo me, un ritorno ai confini nazionali, io la vedo un po' così, e infatti anche in questo i governi europeisti, le forze politiche europeiste devono per forza rifare i conti con l'idea dei confini nazionali, gli strumenti di Stato. No, non è un po' così? Sì, questo appare che sta accadendo, ma non tanto non è il fatto dei nazionalisti che vanno al potere, quanto della mutazione dei programmi o dei paradigmi, delle azioni politiche dei partiti di governo che nazionalisti non sono, e che però hanno la possibilità, essendo al governo, di applicare politiche più statocentriche o più basate sul controllo dei confini e su una rinazionalizzazione delle politiche estere. Però, insomma, in altre parole, adesso io non so come la pensi tu. A me sembrerebbe, magari mi sbaglio, infatti mi daranno torto, che per quanto in crescita in tutte le elezioni dell'Enare locali, l'Alternative für Deutschland in Germania, che da essere stata fondata da economisti e giornalisti anti-euro, anti-latini soprattutto, è diventata una forza più che altro anti-immigrati, cambiando leadership, pur rimanendo iperscettica sui costi che la Germania dovrebbe sostenere a loro giudizio per tenere i pigri latini all'interno dell'euro. Però io non riuscirei a immaginare Alternative für Deutschland che nel breve può arrivare ad avere oltre il 30% dei voti come da anni in Austria FPÖ, o addirittura con un suo candidato arrivare al 49% come è successo in questo doppio turno per le presidenziali in Austria, no? Però la FD è molto più giovane come partito. Quindi non mettiamo limiti, dici tu. No, diciamo, non, secondo me ci sono dei correttivi nei partiti di governo e di maggioranza che impediranno questa ascesa. Penso che questa è un po' la soluzione che in tutti i paesi d'Europa si sta avvenendo, e questo però va a scapito dei rapporti internazionali, perché secondo me sono più pericolosi i governi che si spostano, no? verso politiche statocentriche, piuttosto che delle opposizioni che gridano ma che poi non vanno mai a comandare. Però sono sempre più vicine, o almeno questa è l'impressione, anche questa, ripeto, l'azione streghe che ha visto la conflagrazione di un sistema di potere sessantennale, proprio l'esplosione, perché i due vecchi partiti rimangono, sì, no, proprio con le ossa rotte. Bisognerebbe chiedersi, Giannino, secondo me, se la demonizzazione di questi partiti sia la risposta più giusta. Forse un approccio però più... Però lì, nella crisi che poi ha portato alle dimissioni di Feynman in Austria, c'è anche il fatto che se uno crede di sposare le posizioni nazionaliste, autarchiche, misioniste contro gli immigrati, beh, gli elettori preferiscono l'originale, cioè i partiti che lo sono davvero rispetto alle copie, o no? E certo, perché lui prima ha sposato la politica di accoglienza, infatti ha duramente criticato Orban, eccetera. Dopodiché ha fatto la stessa politica di chiusura a sua volta. E quindi è stato travolto, perché la gente dice, e allora sia l'uno che l'altro. Scelgo Hofer e scelgo l'FPO, che ce lo dicono da anni. No, perché allora si è radicalizzato: chi vuole l'immigrazione, più immigrazione, vota il verde, chi non la vuole vota il conservatore o il nazionalista. Ecco. Lui è riuscito ad avere in un mese entrambe le posizioni. Quindi io devo dire la verità, sarà sorpresa, ma nella realtà questa esperienza austriaca, secondo me, parla un po' anche al resto d'Europa. Io sono molto d'accordo con te, le situazioni politiche, i sistemi politici e istituzionali sono diversi da paese a paese, lo sono le regole per eleggere e i poteri dei capi degli stati e dei presidenti del consiglio e dei parlamenti. Ma detto questo, che la radicalizzazione ci sia stata fortissima, 50 contro 50, su una scelta di fondo non incardinata in nessuno dei due casi, dei due leader contrapposti, da espressioni di coalizioni e partiti tradizionali, cioè dalle grandi due famiglie europee, socialisti e cattolici, la terza, quella liberale, è in crisi da anni, ohimè, non solo in Italia ma anche in Europa. Beh, questo secondo me parla anche per gli altri paesi europei, cioè è un segnale molto potente. Infatti vediamo se Brexit non ci dirà la stessa cosa, perché io anche lì vedremo, ma i sondaggi per quanto un po' raddrizzati a favore adesso del no alla Brexit, ma sono sempre con una percentuale di incerti che fa anche immaginare, consente un risultato 51-49. Vedremo come va. Intanto, grazie a Paolo Quercia, speriamo di avervi dato qualche spunto di riflessione su una cosa che non è vero che riguarda solo gli austriaci, riguarda tutta l'Europa, come sarà ogni elezione e referendum di ogni paese europeo nei prossimi mesi. Continuate con Radio 24, appuntamento con me, Alessandro Milan, domani alle 8:15, attenti alle 2.